America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York. Mario Platero, siamo ormai agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli, ma ieri sera c'è stato un incontro che potrebbe essere quello determinante, perché si è trovato un accordo. Si è trovato un accordo per riaprire il governo, un accordo per innalzare il tetto sul debito con delle scadenze, beh, come dire, a lungo termine rispetto alle 6 settimane che si immaginavano. E cioè, fino al 15 di gennaio sarà riaperto il governo, mentre il tetto sul debito sarà rifinanziato fino al 15 di febbraio. Nel frattempo, Obama e i repubblicani andranno al tavolo dei negoziati e cercheranno di risolvere le loro differenze. Ecco, questo è il progetto che ha preso corpo ieri notte e la cosa su cui si lavorerà oggi per portare il progetto di legge ai voti. E naturalmente fino a quando la cosa non è stata votata non è sicura. C'è qualcuno che dice, beh, si arriverà all'ultimo minuto dell'ultima ora, cioè si arriverà magari fino al 16, al 17, per mettere a punto i vari dettagli. Però diciamo che l'ostacolo principale è stato superato. Dunque aspettiamo il voto, scongiurata l'idea del fallimento americano, e io oggi, visto che ci siamo, vorrei parlarvi d'altro. Beh, tu vuoi fare l'americano? Beh, è uno dei classici. Ieri sulla Quinta Strada vi ho anticipato, proprio nella trasmissione di ieri, che ci sarebbe stata la grande parata del Columbus Day. Ebbene, sono andato in effetti per strada e dunque ho fatto un po' di registrazioni, un piccolo mélange di quello che è successo ieri di italiano lungo la Quinta Strada. Per questo giorno rappresentare tutti gli italiani, il futuro di italiano è molto speciale. Yeah. Ciao America 24. Saluto a tutti gli italiani e buona fortuna. Buon Columbus Day. Bene, ora vi propongo il mio reportage dalla Quinta Strada al Columbus Day di ieri. Reportage dalla Quinta Strada, reportage per la grande festa italiana della Columbus Parade. Cristoforo Colombo, beh, Cristoforo Colombo è una festa nazionale, il Columbus Day, perché insomma è il grande navigatore che ha scoperto l'America, ma la festa è soprattutto italiana. Il Columbus Day è stato istituito come festa nazionale su pressione proprio degli italo-americani, ed è agli italo-americani che alla fine è dedicata questa grandissima, straordinaria festa popolare. Devo dire, ci sono valori, ci sono immagini, abbiamo visto un gruppo in rappresentanza dell'Istituto Italiano di Cultura che è passato nella sfilata, ma ci sono anche degli elementi commerciali. Vale la pena di promuovere in questi momenti di crisi anche i nostri brand, per cui c'era un enorme cartellone con la Vespa e una serie di Vespe, di motorette in formazione, incluso una Vespa sidecar che devo dire ancora non avevo visto. Ci sono poi delegazioni italiane che arrivano da ogni istituzione intorno a New York, intorno all'area metropolitana di New York, per esempio della St. John's University, c'è cioè un grande carro rosso con la scritta appunto dell'università e un gruppo di italoamericani con le loro bandierine, con le loro divise, che salutano il pubblico. C'è la società, pensate, San Calogero di Torretta degli Stati Uniti d'America, ecco, e hanno, come sentite di sottofondo, una loro musica tradizionale locale. Eccoli, sentiamoli. Quanti sono gli italo-americani negli Stati Uniti? A seconda delle statistiche sono alcune decine di milioni, se si considerano i discendenti diretti e indiretti, cioè non solo coloro che hanno il cognome italiano, ma anche coloro che sono figli di una madre italiana o di una nonna italiana che si è sposata con un americano. Vi faccio un esempio: Patrick Lee, che è un senatore, in realtà lui si considera italo-americano, viene sempre alle grandi celebrazioni del NIAF identificandosi proprio con la sua radice italo-americana. E infine, beh, non vorrei fare qui delle preferenze, ma forse sono stati più bravi degli altri, però sta sfilando in questo momento anche una rappresentanza dell'Inter Club, campione d'Europa 2010, Inter Club di Brooklyn, New York, con la scritta Javier Zanetti. Inter Club Moratti di Queens si sono messi insieme, e dunque sport, vespe, cibo, cultura, università in sfilata, tutti in onore di Cristoforo Colombo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su America 24, scrivetemi su Twitter @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, ieri per strada a un certo punto c'è stata una versione di Volare fatta da una ragazza che cantava con una piccola band. Volare è la più grande canzone italiana negli Stati Uniti, la conoscono tutti, ci sono numerosissime versioni, e dunque al grande Modugno, a Volare, a questo ponte canoro fra Italia e Stati Uniti, dedico la canzone di oggi nell'interpretazione di Dean Martin, Volare all'americana. Let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare. Da New York è tutto. Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.